Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Dopo gli attacchi di Bruxelles si attende la reazione e l'azione dell'Unione Europea. Una domanda, la stessa per tutti, e più voci per diverse risposte. Benvenuti da Silvia Bernardi in questa puntata speciale di You Zone. Cosa dobbiamo aspettarci dall'Europa? Renata Briano, PD. L'Europa è stata colpita, prima a Parigi per ben due volte, adesso a Bruxelles. Dobbiamo pensare con una sola testa e agire con un solo braccio. La reazione dei singoli stati sarebbe meno efficace, insieme invece saremo più forti. E lo dico da tempo questo, questa Europa deve diventare una reale unione politica. E visto quello che sta accadendo, aggiungo che non c'è più tanto tempo da perdere. Mara Bizzotto, Lega Nord. Una reazione? Basta vertici urgenti, basta parole, ma una reazione vera, perché il terrorismo ha uno Stato alla testa in Iraq, in Siria, in Libia, ma ha un esercito qua in Europa. Quindi dobbiamo reagire perché siamo in guerra. La guerra, bisogna rispondere con la guerra. Stefano Maullu, Forza Italia. Ma io credo che vada incrementata la collaborazione tra tutti i servizi di sicurezza delle varie nazioni che compongono l'Europa, perché inglesi, tedeschi, italiani ottengono brillanti risultati e credo che questo vada messo a frutto con un'integrazione sempre più spinta per arrivare poi a un servizio di intelligence europeo. È un obiettivo ambizioso, ma credo l'unico possibile per poter garantire sicurezza a tutti i cittadini europei. Paolo De Castro, PD. Dobbiamo aspettare sicuramente di non cedere alla paura, ma di reagire in maniera unitaria, non dare spazio ai populismi e non disperdere il grande lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Massimiliano Salini, Forza Italia. Meno moralismo, meno prudenze di maniera, meno analisi, meno professorini che ci spiegano da che parte sta la verità e come si fa a fare integrazione. Il problema non è come integrare, il problema è come difendere. Abbiamo dimostrato di essere fragili e indecisi e di avere una politica non all'altezza. Ripartiamo subito, i nostri cittadini ce lo chiedono. Più sicurezza significa innanzitutto più unità, 28 paesi membri, 28 grandi potenze, 28 possibilità di nuove idee per garantire sicurezza all'Europa cristiana. Laura Ferrara, Movimento 5 Stelle. In questo momento storico l'elemento basilare e che poi diventa propedeutico per qualsiasi altro tipo di azione che si voglia intraprendere è la volontà politica di cooperare tra Stati membri, volontà che ad oggi sembra mancare e senza di essa non si può andare avanti, non si può fare nulla. Salvo Pogliese, Forza Italia. Ma una risposta coerente con la gravità dell'attacco che l'Europa ha subito. Certamente non possiamo permetterci di versare lacrime come ha fatto la Mogherini, dobbiamo essere conseguenziali e dobbiamo intraprendere un percorso di chiarezza e di altrettanta durezza, attraverso per esempio l'approvazione del PNR che per l'ennesima volta i socialisti non hanno voluto approvare nell'ultima plenaria di Strasburgo. You Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.